che il tempo cambia già, comincia qui un nuovo ciclo ormai. E sento che la mia stagione qui fa freddo, ma c'è il fuoco accanto a te. Di fuori non suono, non c'è più. Le stagioni stanno dormendo intorno a noi. Scorre acqua nuova dentro agli occhi tuoi. Com'è strano essere amanti io e te. Eravamo solo amici io e te. E così la vita cambia in me. Io amo te, la mia parola è sì. Impazzirà nel buio la città. Che chiaro c'è, che pace insieme a te. Ma come mai il tempo fugge già? Le stagioni ora sono realtà. È tornato il vento e l'amore va. Come strano essere amici io e te. Eravamo ieri amanti io e te.